A proposito di mura, di quelle fatte per impedire a chi sta dentro di uscire, non so se voi abbiate capito esattamente qual è la posizione del nostro governo e del Ministero degli Interni in particolare sui centri di permanenza temporanea per stranieri. E come a dire, quelle simpatiche strutture in cui gli ospiti stranieri pescati a girare per l'Italia privi delle prescritte autorizzazioni vengono rinchiusi, anzi il termine tecnico è trattenuti, senza la formalità di un processo, di una difesa, della decisione di un giudice imparziale, in attesa che si trovi il modo di rispedirvi gioiosamente al paese d'origine. Se ho ben capito, l'idea base è quella che quei centri siano utili e doverosi, anzi ne servirebbero di più e di più capienti, ma che devono venire organizzati per bacco in modo da rispettare i diritti e la dignità delle persone ivi appunto trattenute. Ora, a parte il fatto che affermazioni del genere per loro stesso ovvietà non significano poi molto, perché vorrei proprio vedere un ministro o semplicemente un funzionario disposto a dichiarare che a lui dei diritti e della dignità degli stranieri extracomunitari non gliene potrebbe interessare di meno, quello che io non sono riuscito assolutamente a capire, forse voi sì, è come ci si proponga di realizzare questo proposito. I diritti umani non sono una cosa astratta e definibile a piacere, sono una serie di garanzie elaborate nel corso della storia, denunciate dalla legge, e si reggono tutti l'uno con l'altro. In particolare, da un punto di vista squisitamente storico, si fondano tutti sull'habeas corpus, che è l'inviolabilità della libertà personale, che anche ai sensi della nostra Costituzione può essere limitata solo in seguito a un giusto processo. Quali diritti possano essere riconosciuti a chi dalla sua libertà viene privato con decreto prefettizio e quale dignità si sostenga di riconoscere a un povero Cristo messo in gabbia in attesa di trovare il modo di espellerlo, proprio non mi è chiaro. Sostenere che non di detenzione si tratta ma di semplice trattenimento, se si dice così, o trattenuta, non credo cambi molto la sostanza. Eppure non c'è santi. In un'intervista al Manifesto di mercoledì, un tale Alberto Maritati, uno di cui personalmente non avevo mai sentito parlare, ma quanto sembra fa il sottosegretario agli interni nel governo in carica, per cui deve appartenere a uno o l'altra delle molte congregazioni vesche, probabilmente ai DS, visto che il ministro relativo è del cortesinista. Dunque, un tale Alberto Maritati afferma che il problema è quello di allestire strutture che assicurino all'interno spazi idonei per un soggiorno civile, per l'esercizio della libertà personale e per la sicurezza di ciascuno. Avete capito bene, per l'esercizio della libertà personale. È vero che questo sottosegretario Maritati deve essere un po' disturbato, anche lui, perché quando parla della sicurezza interna dei campi dice che bisogna starci attenti perché i loro ospiti sono spesso persone appartenenti a gruppi o etnie contrapposte o di sesso e abitudini inconciliabili tra loro, e vadi per i gruppi e etnie e abitudini che qualche problema di compatibilità talvolta lo pongono, ma vorrei proprio sapere quale sesso vada considerato inconciliabile con un altro. Ma a parte questo, il principio di contraddizione, di non contraddizione, per quanto possa sembrare strano, vale anche per i membri del governo D'Alema, è quella di esercitare la libertà personale in un centro in cui si è trattenuti contro la propria volontà. Non sembra proprio un'ipotesi su cui valga la pena di spendere troppe parole. Sì, c'è Seneca. Seneca ha affermato da qualche parte, credo nel De Costanza Sapientis, ma non ci giurerei, che la libertà è un puro fatto di coscienza e che il saggio, ancorché in catene, resta sempre libero. Queste sono cose che poteva permettersi di scrivere soltanto uno che nella vita faceva ministro dell'imperatore Nerone. L'habeas corpus, comunque, non era stato ancora inventato. In ogni caso, dubito che la contraddizione di cui sopra possa essere sanata con un semplice rinvio alla morale stoica. In realtà io non riesco a scacciare il sospetto che il sottosegretario Maritati, il ministro Bianco, il presidente D'Alema e chi per loro sostengano che la libertà da garantire sia solo quella di restare dove ti mettono. Magari senza prendere troppi sganassoni dagli addetti alla sorveglianza, se possibile, e che quanto alla dignità sia continuo di quella garantita da centri un po' meno palesemente orrendi del lager di Via Corelli. Sapete, un po' di comfort in più, meno sbarre in vista, le tendine alle finestre e magari un po' di spazio ai volontari per attenuare le contraddizioni più brucianti, ma sul principio della detenzione amministrativa, che della libertà e della dignità è l'esatta antitesi, non si transige. D'altronde, per tutti coloro, lo straniero, quello straniero lì naturalmente, eh? Non è un nostro simile, magari un po' sfigato, tanto è vero che è venuto in cerca d'aiuto, ma comunque titolare di quei diritti che definendosi umani vanno applicati appunto a tutti gli uomini, ma qualcuno a cui bisogna vietare l'ingresso in via preliminare, che va espulso con la massima solerzia se è riuscito a entrare lo stesso, perché le frontiere sono delle solide mura dalle quali non si passa, insomma. Poi, dopo aver impartito le opportune disposizioni in tal senso, uno può sempre rifarsi una bella virginità stridendo a gran voce quanto è cattivo Haider ed esprimendo la propria trepida preoccupazione per l'insediamento del nuovo governo austriaco. Che pena, ragazzi, eh? Che pena.